Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Frey e Olga. Ben ritrovate con Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, il vostro programma dedicato alla storia in generale e ai linguaggi che la raccontano, che questa settimana vi guida nella conclusione di un importante anniversario che c'è stato, diciamo, in questi anni, quello della Prima Guerra Mondiale. Domani è il 4 novembre, data che segna l'armistizio dell'Austria-Ungheria con l'Italia, ed è il giorno del famoso bollettino della vittoria di Armando Diaz. Anniversario tragico, naturalmente, per come è stata tragica tutta l'esperienza della Grande Guerra, e noi però cerchiamo di prenderla da una prospettiva particolare. Di Grande Guerra ne avevamo già parlato, infatti avevamo avuto nei nostri studi Jacopo Lorenzini, che non si era occupato di Grande Guerra specificatamente, ma aveva raccontato la generazione di ufficiali e i grandi ufficiali che avevano preparato il primo conflitto mondiale. Oggi andiamo a recuperare un altro autore, un altro storico della stessa area geografica di Jacopo Lorenzini, e avremo con noi ai nostri microfoni Enrico Gaudenzi, che ha scritto un bel libro, La Grande Guerra al Cinema, tra narrazioni e censure, edito nel 2017 da Clueb. Il libro che andremo a presentare assieme all'autore è un libro bello ricco, perché analizza tanto film prodotti nell'epoca del conflitto quanto film prodotti dopo la guerra. Sì, per averne un'idea andate nella parte finale del libro per vedere quanti sono questi film, e trovate un elenco lunghissimo di film dedicati al primo conflitto mondiale, che arriva per i film italiani addirittura al 2015, quindi è pienamente aggiornato. Prima di collegarci con Enrico Gaudenzi, ci sentiamo un pezzo e ci diamo appuntamento fra poco. In a Babylon me see grow murderer. Why not for people them a sufferer? Yeah, roots man I am sad in a base legalized for the people rise. Right away, we make one love is the only way, you know? Who are the victims in Babylon today? Yes, me lion, defend me by the age. Again, but nobody look forward for the future. Roots man, I say that save your future. Yeah. Come again, boom. Who are the victims in Babylon today? Yes, me lion, defend me by the age. Kill the righteousness again, but nobody is learning from the culture. Yeah. Roots man, I say that preach the culture for them, right? Who are the victims in Babylon today? Yes, me lion, defend me by the age. Who are the murderer in Babylon today? Yes, me know the right away. Yeah, yeah. Who are the murderer? victims in Babylon today. Yes, me lion, defend me by the day. To the murderer in Babylon today. Bene, buongiorno allora a Enrico Gaudenzi, l'autore di La Grande Guerra al Cinema, tra narrazione e censure, ed edito da Club, e ben trovato sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Grazie Jacopo e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko ovviamente. Allora, entriamo subito nel libro, un libro che si presenta come una ricerca bella approfondita, un bel librozzo da poter consultare. In questo libro tu viaggi fra filmati e cinema di guerra, e la cosa molto interessante che fai è sia prendere i film che vennero prodotti all'epoca che prendere film pubblicati, prodotti dopo che la guerra finì. Allora, entriamo innanzitutto sui film dell'epoca, quindi queste testimonianze. Ci puoi raccontare un po' di cosa, come l'hai trovati questi filmati, cosa facevano vedere, e soprattutto che tipo di ricerca hai dovuto fare per venirne a capo? Ok, direi che parto da quest'ultima domanda per poi provare a risalire la corrente di tutto quello che mi hai chiesto. Parto essendo uno storico di formazione, citando un attimo il lavoro che ho fatto sulle fonti, che poi mi sembra importante anche per capire il ragionamento che potremo fare oggi insieme. Il libro è una riduzione della mia tesi di dottorato e quando mi sono confrontato con i docenti che mi hanno seguito, il professor Tomattini e la professoressa Doriani, abbiamo deciso di creare un libro che parlasse sì di cinema, ma indagandolo con i metodi, ovvero con l'occhio dello storico. E quindi abbiamo cercato di dare un grande risalto alle fonti. Io mi sono rifatto un po' agli studi di Bernardini, che divide la documentazione da analizzare per chi studia cinema in una documentazione primaria e in una secondaria. Quella primaria di solito vengono considerati i film e i visti censura. Quella secondaria invece è la documentazione ministeriale, le riviste specializzate di categoria e i repertori filmografici. Ovviamente la consistenza dei materiali in un arco cronologico così ampio varia molto a seconda del periodo che andiamo a esaminare, e quindi, giusto per fare un esempio, negli anni 20 è imprescindibile lavorare con la documentazione secondaria, mentre più ci avviciniamo alla contemporaneità, ma possiamo dire tranquillamente da dopo la Seconda Guerra Mondiale ai giorni nostri, il problema è contrario, quello della sovrabbondanza delle fonti, in particolare di quelle secondarie. Si può quindi intuire che ho dato una grande importanza a quelle che chiamavo le documentazioni primarie, quindi in particolare ho lavorato sui visti censura. Sono stato per 6 mesi chiuso dentro l'archivio centrale dello Stato a consultare tutto quello che ho trovato sui fondi di precensura, e poi successivamente ho lavorato dentro il MIBAC alla ricerca di dati interessanti nell'archivio della revisione cinematografica, quella che volgarmente chiamiamo censura. Ecco, a questo punto guarda, ti chiedo subito, mi inserisco anch'io, e ecco, questo ruolo della censura ce lo puoi raccontare anche? E cioè, poi dopo sì. Cosa hai trovato in queste mole di documenti che hai consultato? Allora, il ruolo della censura anche qui ovviamente cambia di anno in anno. È ovvio che possiamo trovare un importantissimo spartiacque, che è la legge del 62, è ancora quella che regolamenta oggi la censura, e lì c'è un primo cambio epocale. Quello che non molti sanno è che la censura fino a quel momento non si occupa tanto del buon costume, oddio, sì, lo fa, ma non è l'argomento principale su cui interviene. In quegli anni il lavoro principale era quello sulla difesa del decoro della reputazione nazionale, e questo è ovviamente vero in particolare per i film di guerra, che insomma di quell'immagine, dell'immagine del paese devono sempre tener conto. Quindi immaginiamo un film che cerchi di raccontare l'esercito italiano in una maniera che può essere considerata denigratoria, viene immediatamente fermato, e non in una fase avanzata di lavorazione, magari andando a tagliare una battuta. La censura italiana lavorava a più livelli, e il primo è quello della precensura, quindi venivano analizzati direttamente i copioni, e di lì veniva data o meno la possibilità di continuare a lavorare. quello che ho scoperto tra le altre cose nelle ricerche legate al libro è che questa pratica della precensura viene ufficializzata solo nel primo dopoguerra, nel 19 per lo specifico, con una legge apposita, ma inizia a essere utilizzata già durante la prima guerra mondiale. Nel 17 il ministro che si occupa della propaganda interna inizia a chiedere che tutti i copioni che riguardano la guerra vengano passati all'interno, vengono passati prima al suo ufficio, se vogliono avere un sostegno ministeriale. Ok, ok. E immagino che ci sia anche una difficoltà, tornando a parlare di documentazione, nel vederli poi questi film. E, fra quelli che hai visto, che immagini della guerra ci passavano? Allora, negli anni di guerra, intanto è molto interessante, ho scritto un articolo su questo proprio recentemente, vedere come cambia la guerra fino a che l'Italia non partecipa, quindi diciamo dal 14 fino al maggio del 15, per poi vedere come nel 15 la guerra, dal 3 maggio quando l'Italia entra in guerra, cambia completamente il modo in cui è raccontata. Mentre nei primi mesi, diciamo così, di conflitto, con l'Italia ancora neutrale, non viene mai raccontata la nazionalità degli eserciti, è una guerra molto moderna, vediamo dei bombardamenti aerei, dei sottomarini, diversi mezzi, le vittime sono numerose, e vi sono spessissimo dei melodrammi che fanno scontrare l'amore familiare contro quello patriottico, e tutti questi drammi si risolvono con la vittoria dell'amore e dei buoni sentimenti. In questo periodo la neonata censura, che ricordo nasce nel 14, interviene in pratica in una maniera minima, non ci sono degli importanti interventi censori, salvo i film che vengono dall'estero, che riguardano la guerra. In quei casi è ancora vietato raccontare il conflitto, parlando della nazionalità. Tutto cambia dopo il 23 maggio. Se si continua a non citare spesso la nazionalità del nemico, è molto interessante vedere che nei numerosissimi film che riguardano il primo conflitto mondiale girati fino al 18, i numeri ci dicono che austriaci, tedeschi, ma soprattutto gli slavi, e questo è interessante per quello che avviene in quegli anni, sono citati con la stessa frequenza. D'altra parte si inizia a raccontare la guerra in una maniera completamente diversa. La tecnologia, e quindi il tipo di guerra, è una tecnologia molto più antiquata, e quindi si racconta la prima guerra mondiale come se fosse la quarta guerra di indipendenza, non solo a livello ideologico, ma anche a livello di armamenti e di tipo di scontri. Le vittime sono molto rare, e di nuovo abbiamo la partita tra un amore familiare contro l'amore patriottico, ma questa volta diventa decisivo, e anzi pende quasi sempre dalla sua parte, da questa parte, diciamo, è l'amore per la patria. In questo periodo l'intervento censorio diventa sicuramente più consistente. Quindi già qui abbiamo un'importante differenziazione. L'altro dato che secondo me è interessante è che ovviamente è uno dei periodi di massima produzione legati ai film sulla prima guerra mondiale, anche negli anni successivi, ma mentre nei 7 mesi del 1915 vengono prodotti più di 60 film, questi diventano una trentina nel 1916, per scendere a 19, anzi 18 nel 1917, e diventare solo 15 nel 1918. Quindi vediamo che è un tema che gli stessi registi trattano in una maniera sempre più rara, sempre più insomma, diventa sempre meno frequente incontrare film su questo tema. E la critica è concorde nel lamentare la scarsa qualità di questi film. Allora, bene, adesso iniziamo a spostarci, iniziamo ad andare verso il post-conflitto e la memoria che ci è tramandata. Per partire però vi proponiamo un estratto che probabilmente conoscerete molti di voi, che molti di voi conosceranno, che per Enrico è stato molto importante nella preparazione di questo libro, nella preparazione della sua ricerca. La voce della Russia! Però prima ascolterai quella di Peppone. Cittadini, lavoratori! Prima di presentarvi il compagno indipendente, avvocato Cerratini, voglio dire due parole alla reazione clericale, atlantica, guerra fondaia, che tutti ben conosciamo! Capito? di corvi neri che parlano di patria. Signore, trattenetemi. Di sacri confini minacciati e di altre balle nazionaliste. Noi diciamo che la patria siamo noi. La patria siamo noi. La patria è il popolo. E questo popolo non combatterà mai contro il glorioso paese del socialismo, che porterà al nostro proletariato oppresso la libertà e la giustizia. E voi giovani che andate nelle barbare caserme, direte a coloro che tentano di armarvi e di usarvi per i loro sporchi interessi, direte che non combatterete. Direte a coloro che diffamano i lavoratori, direte ai calunniatori del popolo, direte che i vostri padri hanno difeso la patria dal barbaro invasore che minacciava i sacri confini, e che noi del 99, che abbiamo combattuto sul Monte Grappa, sulle pietraie del Carso e sul Piave, siamo sempre quelli di allora. E allora, quando tuona il cannone, è la voce della patria che chiama, e noi risponderemo: presente! Presente. Quei vecchi che abbiamo sul petto le medaglie al valore conquistate sul campo di battaglia, ci troveremo allora a fianco dei giovani e combatteremo sempre e dovunque, e getteremo l'anima oltre l'ostacolo e difenderemo i sacri confini d'Italia contro qualsiasi nemico dell'Occidente e dell'Oriente, per l'indipendenza del paese e al solo scopo del bene indissolubile del re e della patria. Viva la Repubblica! Viva l'esercito! Enrico, quindi, ecco, dal film è noto ai più e il titolo ce lo svelerai. E di che cosa si sta trattando e che immagine della guerra ci comunica? Qual è l'immagine quindi che sta passando nella memoria? E quindi quali sono e se ci sono state delle tappe nella produzione di film sulla Grande Guerra dopo il conflitto mondiale? Ok, Jacopo, il film che abbiamo appena ascoltato è la sequenza che abbiamo appena ascoltato viene da Don Camillo e l'onorevole Peppone. È un film del 55 che è stato diretto da Carmine Gallone. Dico il nome del regista perché è interessante anche questa piccola coincidenza. Carmine Gallone è il primo regista che racconta nel 1915 in un film l'impegno dell'Italia nella Grande Guerra. Quasi 50 anni dopo si propone una scena ambientata durante le elezioni politiche del 48. È una sequenza che per me nella mia storia, diciamo così, personale è stata chiave. Io ascoltando questa sequenza non riuscivo a capire come mai Peppone si trasformasse. Cos'è che trasforma il più convinto dei comunisti emiliani in un fanatico sostenitore dell'esercito del re? E qui c'è una domanda molto interessante, secondo me. Cioè, è la leggenda del Piave, che sono le note che abbiamo sentito prima in sottofondo, che permette una trasformazione di Peppone, ci dice molto sul modo in cui il paese ha, in quella data, interessato il primo conflitto mondiale. Nell'Italia spaccata a metà della guerra fredda, c'è qualcosa che unifica il paese. È dalla memoria del Piave, dei ragazzi del 99 di Vittorio Veneto. Se nell'immediato dopoguerra, 19, 20, negli anni del biennio rosso, diciamo così, la stampa socialista critica aspramente la condotta di guerra, ecco che ovviamente negli anni del fascismo, ma anche nel successivo secondo dopoguerra, questa memoria viene lentamente sempre più edulcorata e non riusciamo a capire esattamente il perché. Non è facile capire perché i partiti all'opposizione nel secondo dopoguerra si siedano su questo tipo di ricostruzione, ma anche loro vedono che probabilmente non è funzionale attaccare uno dei pochi miti unificanti del paese. Questa pellicola è significativa anche per un altro motivo. ebbe degli ottimi incassi, ovviamente non solo per merito di questa sequenza, però nelle critiche che escono non è una sequenza che viene particolarmente indagata, quindi si fa capire che probabilmente all'epoca fu digerita, diciamo così, insieme a tutto il resto del film, senza nessun colpo drammatico, ecco, mettiamola così. Quindi ho deciso di citarla ogni volta che faccio una presentazione, perché secondo me rende bene l'idea di quello che era il mito della guerra in questi anni. Insisto, il 55 non è un anno casuale, nella nostra scarsa memoria collettiva di solito si tende a chiudere il secondo conflitto mondiale nel 45, in realtà è solo nel 54 che la guerra si chiude definitivamente con il ritorno di Trieste all'Italia. Tra il 48 e il 54 è un periodo molto importante per la cinematografia italiana sulla prima guerra mondiale, perché escono una cinquantina di titoli che si ricordano quel conflitto, ma non si ricordano il conflitto in generale, si ricordano in maniera indiretta che ci fu una guerra molto importante per la liberazione di Trieste. Trento e il Trentino vengono un po' dimenticati, anzi in tutti questi film ce n'è solo uno che cita, diciamo così, il fronte alpino, mentre il fronte del Carso è protagonista assoluto, viene citato spesso. Mi piacerebbe, se sei d'accordo, provare a lanciare adesso anche l'altro contributo, ok? Questo è un film che secondo me ha un'importanza decisiva nella ricostruzione della memoria, diciamo così, un po' particolare degli anni 50. Si chiama Il Caimano del Piave, è un film che mi auguro a molti di voi non dica nulla, perché le sue qualità estetiche non sono così no. Non è uno dei film probabilmente decisivi per la storia del cinema italiano, ma lo diventa dal momento che andiamo a analizzare i film successivi che raccontano la prima guerra mondiale. Infatti, visto il grandissimo successo di pubblico, fu il settimo incasso di quella stagione, ci sono un numeroso gruppo di film che si ispira proprio a questa pellicola e apertamente, diciamo così, la va a imitare. E quindi è particolarmente interessante proprio perché si racconta il modo in cui viene rielaborato un linguaggio nazionalista. Non gliel'ho detto che gli ho raccontato della sua spilla? Quando i russi attaccavano e io non volevo morire come mio padre per l'Austria, la stringevo nella mano e mi salvavo. La prima cosa che ho fatto quando ho trovato una pattuglia italiana e mi sono consegnato, ma lei forse mi crederà ancora, il collegiale di 3 anni fa. No, Franco, mi dica. Mentre il sergente mi perquisiva, ho baciato la spilla. Oh, Franco. E l'incontro con suo padre, che felicità. Sapere d'essere ormai un soldato italiano e sapere che lei, Lucilla, non era fidanzata o già sposata con quel Goffredo. Questa terra e lei sono i miei più grandi sogni. Non può immaginare che significa per me stare fra quella gente, con quella divisa, parlando un'odiosa lingua. Qui ora sarebbe bello anche morire. No, noi dobbiamo vivere. I contadini dicono che l'acqua del Piave porta fortuna, come quella benedetta. Deve essere vero, Lucilla, vero. Perché io sono ancora con lei. Franco. Allora, Enrico, abbiamo parlato un po' degli anni 50, della Grande Guerra degli anni 50. Io ti chiedo, per andare alla conclusione, c'è una frattura della memoria quando entriamo negli anni 60 e 70? Cioè, questi film come diventano? Se cambiano prospettiva, se cambiano, se diventano un'altra cosa, ecco, rispetto agli anni 50? In realtà è un po' prima la frattura, nel senso che il momento decisivo per me rimane La Grande Guerra di Monicelli, che è un film del 59. Questo film è veramente un film di terniera, perché il suo iter censorio meriterebbe veramente un libro a sé. Ci sono tantissime versioni della sceneggiatura piene di sottolineature in rosso e in blu fatte dall'ufficio censura, che dicono questo sì, questo no, e lentamente riescono gli sceneggiatori a cambiare, ma sono moltissimi gli elementi di continuità. Però è innegabile che il film di Monicelli sia veramente un trampolino per tutto quello che c'è dopo, un po' perché racconta comunque in maniera più disincantata degli altri film il primo conflitto mondiale, un po' perché questo vale secondo me per tutto il film, il cinema italiano, è uno di quei film che riesce a scardinare il sistema in cui veniva vista la storia nazionale. Dicevamo all'inizio della trasmissione che è la legge del 62 quella che permette una revisione della censura nel cinema italiano. Ecco, Monicelli con il suo film, insieme al generale della Rovere di Rossellini, che è sempre del 59, sono i due film che permettono una revisione probabilmente della legge della censura. Ecco, Monicelli può essere visto veramente come la base per i film successivi, perché gioca su due registri. Il primo è quello di trattare attraverso gli stilemi della commedia all'italiana un argomento drammatico del recente passato, la prima guerra mondiale in questo specifico caso, ma è grazie a questo film che poi si inizia a raccontare in una maniera diversa anche la seconda guerra mondiale, per esempio l'8 settembre, nel film di Comencini, Tutti a casa, è sicuramente in debito con questo tipo di lavoro fatto da Monicelli. Poi però c'è anche l'aspetto più drammatico, quello che rincontriamo per esempio in Uomini contro di Rosi, ma anche in Caroline Doctor di Lattuada, che è uno dei film probabilmente più misconosciuti del nostro cinema, ma che in realtà è molto interessante, che entrambi si riallacciano, questi due filoni, all'opera di Monicelli. Bene, Enrico. Secondo me è interessante, chiudo con una piccolissima cosa, vedere anche come si evolvono anche i film per la TV. Da questo punto di vista, negli anni 80 abbiamo una serie di film che si riallacciano proprio all'esperienza di Monicelli, penso al Cuore di Comencini, anche nel bicchiere di Vancini, ma questi cambiano drasticamente nell'ultimo ventennio e secondo me film per la TV come L'amore e la guerra, Eroi per caso e Il confine ci ripropongono un nazionalismo tristemente al passo con i nostri tempi e una semplificazione del conflitto che è davvero imbarazzante, che però ci dicono anche molto del nostro presente, e quindi io nella loro particolarità ve li consiglio non tanto per il modo in cui raccontano la prima guerra mondiale, ma perché secondo me ci aiutano a capire il presente in cui viviamo. Enrico, perfetto, grazie mille veramente di essere stato con noi, qua con Vallun. Ricordiamo a tutte e tutti il libro di Enrico Gaudenzi, La grande guerra al cinema, tra narrazioni e censure, edito da Clueb nel 2017. Grazie Enrico, buona giornata. Grazie a voi, grazie. E buon pomeriggio, ciao. Grazie a Enrico Gaudenzi che ci ha raccontato benissimo la storia e la memoria della Prima Guerra Mondiale con i film, e noi in realtà adesso siamo davvero curiosi di andarci a vedere anche i film che sono un po' meno famosi, ecco, rispetto agli altri. Noi chiudiamo con qualche appuntamento in città. Per esempio giovedì, che è l'8 novembre alle ore 17, c'è un bel convegno a Palazzo d'Accursio, si chiama Il 68 a Bologna e in altre città italiane a confronto, organizzato dall'archivio storico della Nuova Sinistra Marco Pezzi. Poi abbiamo un altro appuntamento che è sempre l'8 novembre alle 15.30, un dibattito su Ferruccio Parri combattente, che si tiene all'Istituto Storico Ferruccio Parri in via Sant'Isaia, ed è il primo di una serie di convegni su Ferruccio Parri sparsi per tutti gli istituti storici del centro-nord. C'è l'evento su Facebook, oppure potete guardare direttamente il sito dell'Istituto Storico Parri di Bologna. Bene, per oggi è veramente tutto. Buon proseguimento di giornata a tutte e tutti da Frey e Olga. Ciao.